Un terzo dei giovani italiani sono disoccupati, la maggior parte al sud. L'Unical, uno dei maggiori centri del meridione per l'alta formazione, se ne sta occupando. Andiamo a vedere come. L'Università della Calabria festeggia con un evento che la porterà sulla stampa di tutta Italia. Roberto Benigni riceverà una laurea honoris causa in filologia moderna. La comunità studentesca non riesce a capire in che modo questa manovra risolleverà le sorti delle centinaia di migliaia di giovani sfruttati calabresi. Queste le dichiarazioni del rettore Giovanni Latorre. Riteniamo che in questo momento Benigni dà molto lustro. Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. All'Università della Calabria Roberto Benigni non ha deluso le aspettative. Non appena ricevuta la pergamena che attesta la sua laurea honoris causa in filologia moderna, ha subito intrattenuto la folta platea con un improvvisato spettacolino. Fuori Onda Radio, lotta studentesca nell'etere. www.fuoriondaradio.altervista.org. Eccoci qua, siamo tornati, siamo qui di nuovo dopo aver superato una tempesta di asteroidi che ha drammaticamente colpito e ucciso la nostra radio e i nostri pacchetti. Abbiamo scoperto che la verità può resistere anche ai pacchetti persi e che quelli recuperati. Perciò vai con la sigla. Che gesticola con le armi, e tra i nuovi santi illuminati al neon sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé, cade da dire forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Ma che colpo se lo Stato qui non c'è, colpo di Stato, ed intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione, lenti incriminati che si rafforzerà la polizia, perché ha concluso infine il capo protezione. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me, si è giunta dalla provenienza del scelto, tu che stingi poi di aver paura. L'ignoranza è nelle cose che non sai, e cerca insomma tu di farti una cultura, e giù libri legati e letti mai. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è. Colpo di Stato, metti la benzina e il colpo prende a te. E c'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è, chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione ha trovato infine le comodità, chi confonde il pranzo con la colazione, chi confonde la salute con l'età. E da migliaia d'anni non cambia la storia, Giulio Cesare cavù testa pelata, e il copione ormai lo san tutti a memoria, e la solita non cambia la menata. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è. Colpo di Stato, va allo stadio, aspetta, vengo insieme a te. Ed ecco qua, siamo arrivati, siamo tornati a dire la verità dopo piccoli problemi e disguidi tecnici, e salutiamo di nuovo tutti quelli che hanno avuto la pazienza di restare collegati on the web, ma il nostro glorioso Peppe Lange è sempre avanti nell'organizzazione delle lotte web, diciamo così. Ci sono, lui è stato il nostro riferimento certo, la nostra isola felice in questo mare affogante che è l'informatica. Quindi io all'inizio vorrei ricordare la grande opera di Peppe Langili, il miglior tecnico che la storia della rugby abbia mai avuto. Ecco, noi ci siamo e riprendiamo il filo conduttore della scorsa puntata. Noi avevamo lasciato la scorsa puntata, che era lo speciale, diciamo, sulla manovra finanziaria, alle liberalizzazioni, anche perché, voglio dire, alle liberalizzazioni sono quella cosa che nell'ultima settimana, diciamo, si è mostrata in tutta la sua forma. Abbiamo avuto delle bozze per le mani, abbiamo cercato di guardarle più o meno, e poi hanno avuto modo di farlo anche le migliaia di adepti dell'acqua pubblica e del referendum, che anzi, migliaia, quale migliaia? Si sta parlando di 20 milioni di persone che hanno votato sì ai referendum, e che oggi si sentono un po' hanno lanciato un allarme. Di questo allarme anche il padre Alex Zanotelli ha dato voce a questo allarme, ovvero sia ci sono delle possibilità su questo articolo 20 famosissimo del decreto liberalizzazioni, che è ancora in bozze, diciamo così, che insomma si vada ad incidere su quello che è il risultato referendario. Ora, se nella giurisdizione e giurisdicevolezza di queste cavilli ci sia un effettivo pericolo per il risultato referendario, questo ancora non è dato sapere. Ma il vero punto è che il signor Monti ha un passato, diciamo, abbastanza triste su quelle che sono i beni comuni e anche, diciamo, la vita in generale, perché ci fa sapere fatemi vedere un po', Fabrizia Pratesi, coordinatrice del comitato scientifico Equivita, ci fa sapere che effettivamente il signor Monti nel 1995 è stato foriero della teoria del brevetto sulla vita, sostanzialmente, nonostante l'Unione Europea all'epoca si era espressa contraria. Lui è continuato la sua battaglia prima di quella del Monti anti Microsoft, diciamo così, è arrivato nel 1998 ad ottenere si dicono in gergo europeo direttiva, ecco, una direttiva europea sull'appunto brevettabilità del vivente. Per cosa si parla di brevettabilità del vivente? Sostanzialmente si parla dei semi geneticamente modificati, come quelli della famosissima Monsanto, che tutti noi ricordiamo, e per chi non lo sapesse, diciamo, è quell'azienda che sta distruggendo i piccoli coltivatori brevettando un seme che, dopo che l'hai piantato e ha dato il mais, muore, e quindi devi ricomprare il seme. Detto ciò, io voglio lasciare la parola a Samuele con una frase di Einstein, che diceva che non si può pretendere che a salvare il mondo dai problemi del mondo siano appunto quelli che questi problemi li hanno provocati. Ecco, a noi ci sembra che questo Monti sia uno di questi, o no? Già, esatto. Io vorrei dire che ci portare un'altra frase, celebre frase di Einstein, che era: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zambino. Detto questo, noi infatti abbiamo questa forte preoccupazione che il signor Monti, che, se ho capito bene dalle ermetiche dall'ermetico parlare di Gustavo, ha fatto sì che prima del 98 non ci siano in Europa brevetti sugli esseri umani, e dopo, in sostanza, dopo le pressioni di Monti in Europa si potesse brevettare anche se quello che è un vegetale è comunque parte di vita. E noi abbiamo quindi questa in mente, che forse questo Monti sia stato portato ad essere il primo ministro italiano appunto per brevettare l'essere umano e sacrificarlo al dio incontrastato del mercato, il voodoo. E adesso vai con questo pezzo che si chiama Biotech is Godzilla. Bye. dopo questo pezzaccio indimenticabile dei Testament, dei Sepultura, che Testament, io devo notare che l'uomo dalla cultura metal è il caro Gustavo, che ha scelto questo pezzo appunto per dalla cultura brasiliana, per fare il collegamento, non so se voi l'avete colto, tra la Monsanto, tra il brevetto degli esseri umani, di cui anche Vandana Shiva ha scritto molto sui semi della vita e sulle biotecnologie, per fare anche il parallelismo tra chi oggi in Brasile, che è un paese, quelle che vengono chiamate in via di sviluppo, che non è un altro modo per dire in via di sfruttamento ulteriore, in cui le energie rinnovabili cosiddette, soprattutto in agricoltura per la produzione di biocarburanti, prendono grandi parti di terreno con grandi speculazioni finanziarie di alcune multinazionali e non, per poi avere come obiettivo speculare impoverendo grande parte della popolazione del luogo. Detto questo, noi eravamo partiti dalle liberalizzazioni dalle ultime nuove sulle liberalizzazioni, visto che è un fenomeno che parte da almeno 25 anni a questa parte e che ha colpito grande parte dell'apparato statale, ferrovie, poste, eccetera. Gustavo. Ma è appunto questo, noi stiamo avendo da 25 anni di problemi, cioè sostanzialmente noi siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati al commissariamento degli stati da parte del mercato, appunto dopo 25 anni di liberalizzazioni, e cercare la risposta nelle liberalizzazioni ci sembra un po' una puttanata, scusateci ascoltatori, sia quelli di Radio Ciroma in differita, sia quelli web su fuoriondaradio.altrevista.org, sia quelli su transizione di fase www.transizionedifase.org, insomma, perdonateci tutti quanti, però scusateci un po', la cosa ci sembra una minchiata. Per quale motivo? Ci sembra una minchiata perché noi abbiamo prima svenduto quello che ci dava la sostanza, sostanzialmente abbiamo svenduto autostrade, abbiamo svenduto tutto il meccanismo dei trasporti, abbiamo svenduto, stiamo svendendo l'università, insomma, e ci siamo tenuti la parte che insomma di profitto non ne può fare, e stiamo cercando di fare profitto a livello statale su quelle parti. Ma è chiaro che la nostra spina dorsale si è fatta sempre più fina, sempre più debole, e il mercato al primo soffio ci ha fatto cadere. E questo è quello che è successo. E loro si vogliono porre il problema della sovranità degli stati, del popolo, eccetera, eccetera, liberalizzando e continuando a svendere e ad affinare quella che è la loro colonna vertebrale, ci sembra. E arrivando a monti, alle misure monti, ci sono alcune cose che nessuno vi dice, noi vorremmo dirvi. Ecco. Il signor Saddam delle lobby è uno che insomma, dopo quello che avevamo detto, adesso ci sta ratificando la sua linea, perché effettivamente le vere liberalizzazioni, se proprio di questo si vuole parlare, se proprio non si vuole capire che dobbiamo riprenderci tutto, da partire dalle banche a finire agli irti di Pedimonti, no? Non si vuole capire questo, ma lui inizia ad attaccare quelle che sono le classi più inutili, cioè non le classi più inutili, scusatemi, cioè le sono merciolate, cioè quando parlano di tassisti, quando parlano di farmacie, quando parlano di avvocatura, e non parlano di banche, non parlano di autostrade, non parlano di ferrovia, che sostanzialmente sono dei monopoli o cartelli, no? È chiaro che la linea è quella di mantenere i privilegi delle banche, perché loro non si possono toccare, l'abbiamo detto già l'altra volta ci veniva in mente il fatto che non si può fare la patrimoniale perché i capitali vanno all'estero, quindi in questo sistema la patrimoniale non si può fare, allo stesso modo in questo sistema non si possono, non si può dire a quelli che sono i gestori unici delle ferrovie gentilmente andate a casa, no, bisogna lavorare sui tassisti, ma i tassisti, signori, è gente che prende 1.500 euro al mese, quindi sono manovre che ci danno poco. In verità noi vorremmo dire, evitiamo, tagliamo la via delle liberalizzazioni e cerchiamo di nazionalizzare quello che deve essere nazionalizzato, cerchiamo di riprenderci come Stato e come popolo il nostro territorio, cerchiamo di riprenderci la gestione dell'acqua, cerchiamo di riprenderci la gestione di autostrade, la gestione per esempio la gestione di autostrade, la gestione dei trasporti. Riprendiamoci quella che è sostanzialmente anche la gestione dell'università, quindi nazionalizziamo le università. questo riprende anche sulla falsa riga della nostra ultima puntata in cui abbiamo detto per non saperne leggere né scrivere nazionalizziamo tutto. Abbiamo chiuso così appunto perché dopo 25 anni e più, perché per l'autostrada è un fenomeno che va avanti molto di più, di liberalizzazioni, è chiaro che, come diceva Gustavo prima, non si può cercare di risolvere il problema con la stessa praticando la stessa lo stesso fenomeno che questo problema ha prodotto. Cioè, se la liberalizzazione era un problema, adesso rispondere con la liberalizzazione a vantaggio di chi va? Perché? Questa è la grande domanda a cui il signor Monti non ci risponde. E a questo proposito noi vorremmo lanciare un altro pezzettino che è chiamato Monetine di Daniele Silvestri. Vai Peppe. Promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate dei denari. Non ho colpa se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bandere di coccola l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. E se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Io vendo scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. Non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi se usate queste mie monete al posto delle armi. I vostri sogni li puntate in questo gioco, prendo un'illusione in più e non è poco. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovare, l'altra per sparire. Una monetina a te, un'altra monetina pure a lei, così fanno sei. Una monetina per sapere che non ho sbagliato mondo, adesso le riconto se non mi confondo. Non mi impiccio, se vinci prendi tutto, se perdi in fondo è solo qualche spiccio. Il rischio è minimo, la posta in gioco alta, prendi una moneta amico e gratta. Credici, provaci, potresti fare 13, se cedi il turno adesso sei pazzo, riflettici. Il tuo destino sta girando ora, sei stato sfortunato amico, tenta ancora. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti, l'altra per sparire. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a lei, così fanno sei. Una monetina per poterti dare quello che mi hai chiesto, una per un viaggio, ancora non è tutto. Una monetina per il Chiapas, una per Filippo che è partito per Caracas. Milioni di monete per il sogno di una terra dopo il mare, ti malgrado tutto, continuo a navigare. Una monetina per la Cina, una per il ponte sullo stretto di Messina, sperando che il calore della terra siciliana possa sciogliere la nebbia fissa in Valpadana. Reggae, una moneta, almeno una moneta contro la sfortuna. Una moneta, per cortesia, una moneta e dopo vado via. Una moneta, almeno una moneta contro la sfortuna. Una moneta, per cortesia, una moneta e dopo vado via. Eccoci qui tornati su Banda Armata, la trasmissione che stavate aspettando. stavamo parlando del signor Caro Monti e del suo rapporto con la sua infatuazione per la politica italiana. Detto questo, noi abbiamo voluto parlare di Monti non come fanno tutti in maniera anche un po' faziosa, capziosa, questi comunistacci. Abbiamo voluto parlare di Monti secondo quello che è il suo stato, il suo ruolo e vuole essere il suo ruolo nella società italiana. E quindi parlare di quelli che sono venuti prima di Monti e che hanno preparato a lui il terreno adatto per fare quelle manovre violentissime ed aspre di cui abbiamo già parlato e cui si sente parlare molto. Basta pensare alla benzina, basta pensare all'ICI, basta pensare alle pensioni, al mondo del lavoro, insomma non siamo qui a fare l'elenco. Detto questo, volevamo parlare appunto di un'altra cosa, un altro dei motivi fondanti che ha spinto Monti a essere presente sulla scena politica italiana, ed è stata la questione del debito. Il debito, al di là, il debito pubblico, al di là di quello che si dice, è un elemento molto importante nelle decisioni politiche del Parlamento, quindi non del governo, del Parlamento, è tutto. Non a caso il Parlamento ormai da 20 anni viene regolamentato a botte di leggi finanziarie, di manovre economiche, appunto perché sgarrare anche solo di un capello nella politica, nel bilancio statale è considerato dai nostri come dire, raffinati parlamentari, dai nostri raffinati politici della nostra classe dirigente, un errore madornale, e di conseguenza si adeguano come delle simpatiche marionette a quello che il mercato e l'economia gli impongono. Ma Monti è venuto qui, ha spodestato Berlusconi con buona pace di qualche fazioso pidista e ha spostato Berlusconi cavalcando il problema del debito, il problema della crisi internazionale. Allora noi volevamo ricordare che cos'è questo debito e come si è venuto a creare. Beh, il debito non nasce né ieri né l'altro ieri, è una cosa che ci portiamo avanti, che è un regalo di quello che dicevamo prima insieme a Gustavo, le liberalizzazioni. Cioè all'inizio degli anni Ottanta la politica internazionale ha deciso, visto che iniziava a farsi sentire un'altra crisi che era quella del 73, comunque iniziava ad avvertire i morsi di una delle prime crisi importanti, e di conseguenza ha iniziato a non tassare i grandi gruppi industriali e finanziari, i grandi gruppi assicurativi, i grandi gruppi bancari, in modo che il sistema non andasse in crisi. Quando questa cosa non serviva più al suo scopo, ha iniziato a lo Stato a contrarre debiti con assicurazioni, gruppi bancari, gruppi industriali. Vi invito a notare quante volte in questo racconto tornano questi soggetti. Detto questo, una volta lo Stato inizia a contrarre debiti per cercare di pagare salari, pensioni, sanità, trasporti, cose di cui tutti noi viviamo quotidianamente, a un certo punto inizia ad avere anche dei tassi di interesse, oltre che a non avere più la possibilità di pagare i debiti che aveva. E così in molti stati, soprattutto in Italia, avviene il moltiplicarsi stratosferico del debito nazionale. Detto questo, a un certo punto avvengono due cose molto contraddittorie. La prima è che i tassi di interesse vanno a favore delle banche, che sono le stesse che detengono grandi parti del debito pubblico. Significa dire che io invece di avere un guadagno solo ne ho il doppio del guadagno. La seconda cosa è che a un certo punto si dice sempre che la coperta è corta, e poi attraverso le liberalizzazioni si strappa la coperta si strappa proprio la coperta che copre i più poveri, e di conseguenza le grandi manovre finanziarie sono state quelle che hanno sacrificato pensioni, come pensioni, salari, hanno sacrificato sanità, trasporti, appunto per in virtù del sacrosanto rigore verso le banche. E poi aggiungiamo la seconda contraddizione, cioè verso le banche, i grandi gruppi finanziari, noi siamo così ligi e rispettosi, cosa che loro fanno in senso in senso opposto, e basta notare quanto le banche siano ligi e rispettose verso la grande parte delle persone che sono costrette a farsi un mutuo, a indebitarsi con le banche, perché non riescono a sopravvivere in questa società in cui tutto quanto viene tagliato appunto per dare soldi alle banche. Di conseguenza, questo breve excursus ci fa notare quanto importante sia la questione delle banche. Tanto è vero che se spostiamo la questione per quanto riguarda l'Unione Europea, detto in una parola, ci accorgiamo che il peso delle banche non è rilevante, quando notiamo che nei finanziamenti che sono stati fatti per salvare il debito sovrano della Grecia, il risultato è stato che grande parte delle banche tedesche e francesi che tenevano il debito pubblico verso la Grecia adesso posseggono pezzi di acquedotto, pezzi di trasporti, pezzi del stato sociale della Grecia. Questo si rende noto anche nel fondo salva stati, che è quello strumento che attraverso il quale si è rifinanziato il debito pubblico greco, e questo si nota soprattutto per l'esiguità dei fondi, per la sua disposizione, per la discrezionalità del suo intervento e anche per il parziale, come dire, coinvolgimento nelle stesse banche che detenevano il debito pubblico. Questo è stato praticamente questa è stata la linea della politica europea, che ha spinto anche attraverso le pressioni fatte dal nostro carissimo Napolitano, colui il nostro, come dire, napolitanicchio, il nostro garante, la firma più veloce del West, a portare il nostro governo Monti alla ribalta. E detto questo, fatto questo piccolo excursus, c'è qualcuno dei miei alunni che vorrebbe dire qualcosa. Ecco, che loro vorrebbero farci dire che siamo in questa crisi per colpa dei governi, e noi vogliamo affermare una cazzo di cosa, che come prima per la Monsanto, no, c'è il signor Willie de Klerk che dice che all'epoca è stata la più forte azione di lobby nella storia del Parlamento europeo. Siamo chiari con tutti quanti, le leggi le fanno le lobby, le leggi le fanno i mercati, da sempre, e oggi ancora sono le banche che stanno facendo queste leggi. Per favore, non aggrediamo i nostri governi, c'è chi li supporta, lo sappiamo, sono cani, va benissimo, però quella ancora il vero problema, mettiamocelo una volta per sempre in testa, è il mercato sui banchi e su chi dedicavano fare profitti su Bavit e su Blessing Siperson. Mettiamolo bene in testa. Dopo questo noi spezzeremo con la grande rubrica rassegna stampa, e vi lascio con un pezzo che ricorda una terra martoriata dal debito, una terra che per il debito è stata svenduta ai signori Monsanto, ai signori Daivu, ai signori Matiz, a pezzi. Quindi Mama Africa di Angelique Kidjo e il signor chitarrista, come si chiama quel chitarrista, Eric Clapton. Oh cazzo, cate freak. Miles Jordan. John Way. Eric Clapton. Bye Pep. Alors nous allons chanter cette bénédiction qui se chante comme ceci. Ashe mama, ashe mama Africa. Ashe mama, ashe mama Africa. Après vous maintenant. Moi je veux plus fort. Ashe mama. Voilà, vous me connaissez maintenant. Quand je demande un truc, donnez-le moi. Are you guys ready? Carlos said, uh-oh. Baby. Ragazzi, il chitarrista di Woodstock, mi sembra che di Woodstock, mi sembra che era Santana. E dunque, buonasera a tutti. Io sono Luca e ho cambiato un po' la voce, ho avuto un trapianto e quindi Peppe Lunch, vai con la sigla. Abbatte. Dica. Banda Abbatte. Dove? Rassegna stramba. Il tappeto sonoro di Luca Abbate. Dunque, buonasera ragazzi, andiamo avanti con la rassegna stampa. Come non posso parlare della notizia Benigni all'Unical. Dunque, ci sono state contestazioni. Il giorno di Benigni all'Università della Calabria, gli studenti assistono in streaming i soli 49 posti prenotabili in teatro accaparrati da docenti e dipendenti. Andiamo a vedere cosa dicono gli studenti. Dunque, Benigni una trovata pubblicitaria. Perché passerelle quando abbiamo problemi seri? Perché sono state ritardate di 6 mesi le borse di studio? Chi ha deciso e per quale motivo? E ancora, abbiamo bisogno di biblioteche aperte, di trasporti meno cari e che funzionino soprattutto. Ma non tra gli studenti che hanno protestato c'è stato anche chi ha fatto sentire la sua voce perché deluso dall'essere costretto a rimanere fuori dal teatro. Non ci hanno fatto entrare, hanno detto, e c'è uno schieramento di poliziotti imponente. Ci chiediamo perché a noi è stato impedito l'accesso. Il teatro è per tutti e non per pochi. Invece si è preferito privilegiare gli amici e non è questa l'università che vogliamo. A proposito di amici e privilegi, un'altra notizia fresca è dal titolo «Se l'unica al condanna il nepotismo». A quanto pare entrerà in vigore il prossimo 27 gennaio il testo che regolamenta la vita dell'Ateneo di Arcavaccata, dal favoritismo ai fastidi sessuali. A parte così, diciamo, la notizia, c'è anche la partenza del toto nomine sui componenti della commissione. Quindi oltre con Benigni, l'Unical festeggia i suoi primi 40 anni con il codice etico in vigore dal 27 gennaio prossimo. Il testo. Ma questo codice etico, no, dirà forse che se il teatro è pagato con i soldi degli studenti, gli studenti ci possono entrare? No. Questo testo prevede 3 grandi sanzioni disciplinari inflitte dal Senato accademico su proposta del rettore e regolamenterà la condotta della popolazione universitaria a partire dai fastidi sessuali al nepotismo e favoritismo. Nel codice nessun accenno, ma si presume che la cosa abbia poco a che fare con l'etica, essendo legittima, per quanto inopportuna, ad anomalie come quella che investe lo stesso rettore, imbullonato sulla poltrona più alta dell'Ateneo da 12 anni dopo aver cambiato lo statuto per poter approdare al terzo mandato da Guinness da pallone d'oro consecutivo come Platini e Messi. Dunque, a proposito sempre di istruzione, scuola, andiamo a vedere un attimo com'è la scuola pubblica. Scuola pubblica, ma pagano anche le famiglie. L'80% delle spese a carico dei genitori. Dunque, quali sono queste spese? Gite, corsi, cancellerie, detersivi. Ecco per cosa chiedono i contributi i licei. Corsi pomeridiani e attività sportive, giornalini d'istituto e recite teatrali, gite e viaggi di istruzione, corsi di lingua straniera e per conseguire la patente informatica, rivolti a prof e studenti, quindi non solo i professori, anche gli studenti, corsi per ottenere il patentino per il ciclomotore, assicurazione nei licei classici e scientifici italiani, quasi sempre pagano mamma e papà. E non solo, diciamo, l'obbligo per le famiglie non riguarda solo questo tipo di costo, ma anche a altri tipi di costi relativi alla carta igienica, materiale di cancelleria, sì, carta igienica ragazzi, toner e carta per fotocopie e per fini detersivi. Guarda che se serve un po' di toner che noi... E persino i detersivi per mantenere puliti gli ambienti scolastici. Senza questi soldi i licei italiani entrerebbero in una crisi vera e propria. Spostiamoci nel Cosentino. Su autostrada è stata lì 116-18 la protesta degli autotrasportatori. Ieri a Cosenza, quindi in mattinata, decine di autocarri e autocarri autisti hanno presidiato gli svincoli autostradali a Cosenza Nord Rende e di Firmo della 3 Salerno Reggio Calabria. Vabbè, i presidi si sono segnalati anche a Sibari sullo svincolo della strada statale 106 e a Scalea sulla strada statale 18 Tirrenica. I camionisti stanno solidarizzando con i loro colleghi siciliani che da giorni sono in agitazione. Le motivazioni sono da ricercarsi nell'aumento del carburante. Ragazzi, 1,81 stamattina, aumento del carburante e assicurazioni, che al sud incidono maggiormente sui redditi degli autotrasportatori. Sempre nel Cosentino, volevo, Samuele mi sta richiamando per il tempo, è meglio se facciamo una pausa? Sì, dai, facciamo uno stacco, Peppo, vai con lo stacco. Bye. Questi erano i Los Redondos, un gruppo argentino. Non so se sentite la mia latinoamericanità quest'oggi. Il blues dell'artiglieria si chiamava questo, mica giusto per restare in tema di, eh? Vai grande. Grazie Gustavo, io ero rimasta a San Giovanni in Fiore invece. Tu Latino America, va bene. Allora dunque, che succede a San Giovanni in Fiore? Sono 8 giorni dei lavoratori stanno facendo lo sciopero della fame. Quindi lavoratori precari addetti alla manutenzione dell'ospedale civile di San Giovanni in Fiore che chiedono di riottenere il loro posto di lavoro. Un'avvertenza che sta tenendo col fiato sospeso un'intera cittadina che sta esprimendo tutta la sua solidarietà ai precari. Dunque sentiamo le parole che dice il lavoratore che ieri si è sentito male. Appena i sanitari mi staccano la flebo, io torno a lottare nell'atrio dell'ospedale. Roma. Gli attivisti del Forum Italiano ieri hanno fatto una visitina alla sede del Tesoro, quindi sì per l'acqua, scusami Gustavo, hai fatto bene. Allora, manifestanti con megafoni e striscioni sono entrati nel cortile del Ministero dell'Economia. Gli attivisti protestano per il progetto di liberalizzazioni relativo alle municipalizzate che potrebbero portare l'acqua in mano ai privati, sconfessando dunque il recente referendum. Un'altra notizia, come non parlare, questa manovra sta facendo un sacco di rumore, come si suol dire, liberalizzazioni, tassisti rivolta a Roma e non sono gli unici. Al Circo Massimo da tutta Italia. Non si fermano le proteste dei tassisti, malgrado la soddisfazione dei delegati sindacali per le aperture ottenute da parte del governo. I circa 400 tassisti riuniti in assemblea al Circo Massimo hanno votato infatti per la prosecuzione del blocco del servizio. I tassisti si ritroveranno domani al Circo Massimo, sebbene non ci sono permessi per farlo. Vabbè, a parte i tassisti, alla lista delle proteste. Permessi? Nel senso che staranno al Circo Massimo per me? Permessi per farlo. Per far permessi. Cool. Dunque, alla lista delle proteste si aggiungono i benzinai. Ragazzi, non si capisce più niente. Allora, i camionisti protestano per la benzina, i benzinai protestano per i camionisti, non si capisce niente. Comunque minacciano 10 giorni di sciopero. Andiamo avanti. Ah, ecco qua la notizia che sta facendo il giro del mondo, no? E, non lo so, la nave che affonda, Titanic. Ragazzi, non ce la faccio più. Ah, la nave che affonda, l'Italia. Più o meno, siamo lì. Comunque, non ce la faccio più. Non è possibile che si parla sempre ovunque di questa notizia e invece si mette in ombra quello che è l'ennesimo lutto nel Mediterraneo. Dunque, dalla Libia arrivano 55 dispersi sulla rotta per Lampedusa. La capitaneria di porto di Misrat in Libia. Scusate, ma è una cretina albanese che potremmo fare anche lei, insomma. Cioè, ce l'abbiamo chiesto, insomma, sfruttamente chiesto, siccome non avevamo il signor Abate è andato via per rimpiazzarlo, prendiamo lei a 1,50 euro all'ora in nero e quindi chissà. Ma chi è questo nero? Ragazzi, a questo servono gli immigrati, dai, su. Allora, la capitaneria di porto di Misrat in Libia ha recuperato questa mattina un gommone alla deriva del largo, vedete, mi emozionate ragazzi, dai, basta, alla deriva al largo di Kums, non so se la pronuncia è esatta. Comunque a bordo è stato trovato il corpo senza vita di un giovane uomo, nessuna traccia invece degli altri 55 migranti somali, erano diretti appunto verso Lampedusa. E ci domandiamo ancora una volta perché non si parla e non si dà spazio a questo tipo di notizia. Andiamo in Marocco, disoccupati si danno fuoco, la folla assedia Parlamento e sede sindacato. Dunque, la drammatica protesta di 4 giovani universitari senza lavoro. a migliaia si radunano a Rabat. Uno degli ustionati sarebbe in gravissime condizioni e ricordiamo che un anno fa un gesto analogo scatenò la rivolta in Tunisia dando inizio alla primavera araba. E dunque sempre all'estero, Romania, protestano contro l'austerità, scontri tra manifestanti e polizia, 70 feriti, e quindi centinaia di persone a Bucarest per strada contro le misure adottate dal governo sulla riforma della sanità. Molti cassonetti dati alle fiamme e gli agenti come al solito hanno represso la folla attraverso lacrimogeni e soliti strumenti e fucilate non ci sono state notizie. Prego Samuele. D'altra parte non possiamo non notare, anche se sono un intruso in questa rubrica, lo devo dire, sono io l'immigrato in questo caso, non possiamo non notare il fatto che sia in Marocco sia in Romania sono successe due cose che dovrebbero far lezione. Basta notare che solo 5 giorni di sciopero generale in Marocco e gli scontri feroci in Romania hanno fatto sì che i governanti concedessero delle lievi riforme, dei tavoli di concertazione ai manifestanti, cosa che non avviene se ci sediamo e votiamo PD, se ci sediamo e spegniamo la nostra opposizione critica, se noi cerchiamo di ricostituire i fili della narrazione di questo millennio che chissà dove porterà. Insomma, lotta dura senza paura, questo è l'unico risultato, solo questo porta risultati. A proposito di lotta dura, diciamo, andiamo in Albania invece, vediamo cosa succede. Samuel, non mi sfottere. Dunque, in Albania è in atto una raccolta firme per chiedere un referendum e dire no, guardate un po', dire no all'importazione dei rifiuti dall'Europa. Ragazzi, non vi facciamo passare, mi dispiace per i rifiuti di Napoli, insomma, della Calabria, ma non verranno in Albania. Prego. Tu che vuoi? Prima te ne vai dall'Albania e poi vai a dire noi non vi facciamo passare. Adesso basta, tu sei uno di quelli che sta favoreggiando i rifiuti che andranno in Albania e ci andranno, quanto è vero il Dio. Io parlo come c'è a convenienza. A volte sono albanese, a volte italiana, a secondo. Dunque, la legge è stata approvata lo scorso 3 novembre dal governo senza minimamente tenere in considerazione l'opposizione di 30 associazioni ambientaliste e la contraria opposizione del Presidente della Repubblica. Si parla di un vero e proprio colpo di Stato comunque. A quanto pare la raccolta firme sta andando bene, speriamo di raggiungere le cifre, speriamo che non ci facciano giochetti burocratici legati alla corruzione, eccetera, eccetera. Io, Peppe Lanci, io avrei anche finito con la rassegna stramba, adesso tocca a te, vai con la musica. Abbate, dica! Banda Abate, dove? Rassegna stramba, il tappeto sonoro di Luca Abate. Con noi è moralista puritano bacchettone, ma si firma mentre scopa con Ecco, noi adesso vogliamo aprire le porte ad una nuova rubrica di Banda Armata. Ebbene sì, tutte queste rubriche, e il signor Peppe Lange ci darà il via con la nuova sigla. Vai Peppe. C'era una volta l'università, dove scorgava libero e felice tutto il sapere del mondo. Ma un brutto giorno baroni banchieri, rettori ordinari, si nascosero in un cespuglietto nei pressi della fonte. E mentre il povero studente si apprestava ad abbeverarsi alla fonte del sapere, ministri, professori saltarono fuori e ne fecero un sol boccone. C'era una volta l'università, la rubrica di approfondimento universitario che stavate aspettando. E noi, ecco qui, c'era una volta l'università, è questo. E noi, questa è una rubrica che cercherà di spiegarvi settimana dopo settimana, cari ascoltatori, sia quelli web che ci stanno ascoltando su fuoriondaradio.altervista.org, sia quelli Ether su Radio Roma 105.7 che ci saranno, e quelli là su tensionedifase.org. E poi vorremmo che salutare tutti la categoria degli ascoltatori che sono la maggioranza, gli ascoltatori che non esistono, che non ci ascolteranno. Vorremmo salutare questa categoria di ascoltatori che non ci ascolteranno, che è la grande parte delle cose, però noi lo facciamo anche per loro, perché è importante questa cosa, è importante. E questa è la rubrica che vuole capire una cosa, sostanzialmente, vuole cercare di spiegarla dopo averla capita, perché è un problema. Come mai? Anche qua all'Università della Calabria, uno strumento come quello che è quello universitario, che doveva essere all'epoca lo strumento dell'emancipazione della classe calabrese, della classe sfruttata, come mai è diventato lo strumento d'oppressione? Come è successa questa cosa? Come è successo che dal mondo del sapere è diventato il mondo del dolore? Com'è possibile che ci sono migliaia di studenti che sono intrappolati tra un call center e l'aspettativa della laurea? Com'è possibile questa cosa? È possibile che, per lo stesso motivo per cui è possibile che un governo viene commissariato dallo Stato, è che un governo viene commissariato, che uno Stato viene commissariato dal mercato. È possibile. È possibile perché anche l'università è una cosa che è rientrata in 25 anni di svendita. Ecco qui. Io. È vero, 25 anni di svendita. 25 anni, anzi 30, 40 anni di saldi. Noi abbiamo, cioè, a un certo punto gli stati sono diventati un grande supermercato che ha lanciato i saldi. E così è stato anche appunto con quello che è stato l'inizio, il più grande movimento universitario, quello della Pantera, che contestava, brevemente, così come incipit, appunto quello che è stato l'inizio della grande svendita universitaria, che loro hanno chiamato autonomia per gli studenti, autonomia per gli atenei e concorrenzialità degli atenei. Detto questo, perché tratteremo meglio nelle prossime puntate, il grande movimento della Pantera appunto si inizia a battere contro quello che è stato, tutto quello che abbiamo detto fino a, in questi interventi che ci hanno preceduto, cioè appunto il grande inizio del corrispettivo universitario, delle privatizzazioni che di lì avrebbero colpito ferrovie, poste, eccetera, eccetera. E detto questo, noi vi lasciamo con un cambio di sigla finale. Vi lasciamo con una canzone che ha caratterizzato, che è nata con il movimento della Pantera, e che è una canzone molto pregna di significato, soprattutto se la leggiamo attraverso gli occhi di chi vive e vede la società. È una canzone che parla di categorie a rischio ed è Onda Rossa Posse. Vai Peppe, questa è la nostra sigla finale. Rossa Posse! Rap, poesia della strada, arriva. capiscono perché dicono il vero. Posse? Onda rossa la posse. Puoi trattenerti ore sì, ma poi lasciare il segno. Guarda, NCOT scalpita irrequieto, mai domato perché viene dalla strada. Lui spara, rompe il buio mentre illumina la rima. Così ex militata. Ribelli in prima linea che declamano il messaggio. Forte, potente. Non giri di parole ma diretti verso il cuore per colpire ancora il cuore. Per colpire ancora il cuore perché ho visto. Perché ho visto. Io ho visto. Sì. Troppe volte io l'ho vista, ascoltata. Cine, TV, radio, nei giornali questa storia. Storia. Di una banda non di strada, indifesa, inoffesa, armata. È la cricca del potere, mafia e lì nell'Italia. Controllano l'Italia e tu hacker. Spicca e sacche, spicca e vendi immagini degli ate. La bolsa, i mercati. Gli stagni insanguinati. Buongiorno, vediamo subito i titoli del nostro giornale. Vivi Gruber, Bruno Vespa, Everardo, Dalano, Noce, Carmella, sorella, Enzo, Biagi, Montanelli. Facciano notizie, tagliate con salsicce buone da mangiare. Dal banale, l'illegale, immagini, punte, scritture. Effimere presenze che raccontano di niente. Gratis, nella tua TV. Davanti, seduti e poi sdraiati. Morti, liberamente prigionieri. Tu, bocca d'onica, il posto dei pensieri in realtà. L'arte di cambiarla simulata, camuffata, rivoltata, modellata. Becchino col pennino, speculi su tutti. Per quattro, sporchi, duri di soldi. Pezzi alla carriera, sei come una bandiera. Lecchi il culo al direttore e ti fotti del Reale. Non credere nei media, non credere nei media, non credere nei media. Banchieri, magistrati, politici, intriganti, strozzini, usurai, giornalisti e poliziotti. Quando uscite per la strada guardatevi negli occhi. Vivete calpestando, ma forse un calpestato vi sta pedinando. Siete categorie a rischio. Contro i mali dell'impero con i cani. Ringhiate! Forte, sciocchi, spiri armati, ottusi ed arroganti. Calibro 9. Manganelli, sirene, ulula nella strada per cercarci. Assediato e perquisito il tuo quartiere. A scuola la storia si ripete sempre uguale. Guardie! Caffini neri, un tempo seminato da tempesta. Che ciascuno aspetta il suo fottute guardie. Voi chi vi comanda? Fottute guardie! Bianca, polvere dannata, rovina. Rovina della strada inventata, presentata con il visto e poi diffusa, diffusa, confusa. Per il mondo, per te. Cresciuto nella strada senza niente. Niente. Oltre la roba t'hanno dato. Senza soldi, oltre lo spaccio, rapine. Tanti soldi in un momento. Entri, con i tuoi amici insieme a te. Non ti muovere, è una rapina. Sì. Finalmente nasce niente, io non spero nello stato, quello è niente. Anzi peggio mi vuol morto, ha paura, ascolta. Tocca a te. Lotta. Nelle strade. Lotta. Le forme, la voglia, tu non perder tempo. Ehi, capisci quel che dico? Pensieri senza nodo. Nietzsche, Marx, Socrate e Platone. Dallas, capito, il discardi nel pallone. Chi è più famoso fra la popolazione? Chi è più famoso in questo fottuto paese? Fare il poliziotto, lo dicono in TV. Vuole dire se forte, vuole dire se potente. Ma ricorda di strada quando senti le sirene. Qualcuno sta rischiando le catene. C-A-T-E-N. Catene molto strette, morsa atroce le manette. Io scrivo la rima, non lasciare la tua mente alla deriva. Ora sono in strada, vicino alla banca. Sento le sirene, la gente si accalca. Un giovane si muove, cerca di sfangarla. Pezzo una rapina, mister militante avana. Forse hanno arrestato un fratello che ha tentato di far solo in pochi secondi un guadagno di vent'anni. Penso è giusto arraffare tutto, è giusto arraffare tutto. Arraffare tutto è giusto. Banche, tanti soldi. Tanti soldi in cassaforte. Banche, banche, tanti soldi. C'è una banca, una banca, stanca sulla strada. Banche, banche, tanti soldi in cassaforte. Che finanziano le guerre e ricattano la gente. Tanti soldi da una parte, poco niente nelle tasche. Senza casa ed in famiglia, senza casa in una strada. Banche, banche, solo banche, Regno Unito della mafia. Artifici, trafficanti, banchieri e magistrati, politici intriganti, strozzini, usurai, giornalisti e poliziotti. Quando uscite per la strada, guardatemi negli occhi. Vivete calpestando. Ma forse un calpestato vi sta pedinando. Siete categorie a rischio. Questa è una scuola nuova, ascolta il testo. Chi ci fa il ritmo, batte il tempo, poi lo spara per carini diretto. Protopo, da Menzio, di la dura bosse, sì. Excel foglietto e non è tutto, perché c'è tutto il resto. Ed è certo, qui stiamo crescendo, abbiamo saccheggiato. Ma ora in lungo e in largo noi stiamo seminando un lucido delirio. Ma guarda il fatto, dal basso, con la forza di un masso, nuove idee piovono come grandine, pronte al martirio. Ma ne ho provate tante e tante, per col cuore ferito. Ma senza tristezza, se tu sei chi sei, ogni volta ricomincia. E non sono mai troppe, perché ti ho visto, perché più vivi male, più diventi forte, perché siete categoria a rischio. Siete categorie a rischio, categoria a rischio. Siete categorie.